Porti gli spuntini durante le tue prestazioni o no? Ti nascondi gel dentro le mutande, che cosa fai? La diversificazione, concentriamoci su questo principio, perché significa, beh, quello che ci diceva la nonna: non mettiamo tutte le uova nello stesso cesto. Perché lei c'ha il ginocchio in testa, perché è uno dei massimi esperti di, è troppo innamorato del ginocchio, professor D'Anchile. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Vado al massimo. Vado al massimo. Vado al massimo. Vado con fede vere. Eh sì, in questi giorni se guardiamo alla borsa leggiamo che è tutto al top, al massimo. Le borse europee sono sui massimi da 6 anni, Wall Street è sui massimi di sempre. Vanno un po' meno bene le borse asiatiche, qualcuno potrebbe tentare di mordersi i gomiti perché non ha acciuffato delle occasioni e adesso osserva questo andamento positivo magari con un po' di rimpianto. Dall'altra parte abbiamo le obbligazioni, i titoli di Stato, che sono invece a rendimenti molto bassi. Allora Deborah, allora tu mi dovrai spiegare, intanto vedo già che qua in studio abbiamo la nostra ospite che ci aiuterà a capire bene la situazione, però tu mi dovrai far capire, adesso che i mercati sono al massimo e invece i titoli sono bassi, io dove metto i miei risparmi? Certo. È il momento di investire, chi può farlo, chi ci guadagna, chi ci perde? È ovvio che è una situazione che genera un po' di confusione fra i risparmiatori. Allora oggi abbiamo tante domande per la nostra ospite, ma soprattutto ce ne aspettiamo tante da parte vostra all'800 24 00 24. Buongiorno Emanuela Donofrio, direttore investimenti del gruppo Unicredit, benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno. Naturalmente il numero a cui potete inviare i vostri quesiti è anche il 349-238-6666, degli sms brevi, efficaci, sintetici, per chiaramente fare delle considerazioni sull'andamento dei mercati finanziari. Facciamo una distinzione, dottoressa Donofrio, fra mercato azionario e obbligazionario. Cominciamo con il primo, queste borse che hanno messo un po' il turbo, come diceva prima anche Vasco Rossi. Tipicamente maggio è il mese in cui fra voi operatori circola questo detto: sell in May and go away, quindi vendiamo tutto e andiamocene in vacanza tranquilli. Intanto le dico se ci sono delle avvisaglie per cui anche quest'anno questo potrà succedere. Ma sembra che in realtà quest'anno questo detto non si possa applicare, almeno non al mese di maggio, e questo grazie soprattutto alle recenti dichiarazioni della Banca Centrale Europea. Draghi finalmente ha comunicato agli operatori finanziari che l'inflazione così bassa, pericolosamente bassa, richiede una maggior proattività da parte della Banca Centrale Europea, che quindi già a partire da giugno potrebbe adottare delle misure che appunto avranno come effetto soprattutto quello di far scendere ulteriormente il costo del denaro nel sud dell'Europa, perché non dimentichiamo che nonostante il costo del denaro sia a livelli prossimi allo zero, purtroppo sia in Italia che in Spagna, in Grecia e Portogallo, le famiglie e le imprese debbono pagare un costo del denaro molto elevato. Quindi la Banca Centrale Europea si è impegnata a mettere in atto tutta una serie di misure che hanno questo obiettivo. Questo significa quindi che finalmente potremo, soprattutto a partire dal dopo estate, vedere dei miglioramenti sì, anche in Italia. Quindi non maggio ma settembre. Maggio-settembre per vedere gli effetti delle iniziative di giugno della Banca Centrale. Qua abbiamo appuntamenti per tutti i mesi. Tra l'altro queste iniziative di giugno della Banca Centrale Europea sono state ribadite questa mattina anche dal bollettino mensile della BCE, che ha detto: siamo pronti ad agire contro la bassa inflazione. Contro la bassa inflazione, dottoressa D'Onofrio, quali sono i migliori strumenti di investimento affinché appunto un piccolo risparmiatore si possa proteggere da uno scenario di questo tipo? Ma allora, in una situazione di questo genere bisogna soprattutto guardare alle prospettive. Quindi le prospettive, se la BCE, tutti ce lo auguriamo, avrà successo in questa operazione, naturalmente darà una grande mano soprattutto all'economia reale. Quindi questo significa che l'Italia, a partire dall'ultimo trimestre di quest'anno, dovrebbe cominciare a mostrare dei segni di miglioramento, dei segni di ripresa. Il PIL di questa mattina intanto negativo, -0,1% nel primo trimestre dell'anno. Quindi abbiamo naturalmente iniziato la l'anno con ancora un forte, diciamo, segnale di debolezza, ma del resto se non riparte il mercato del credito, e cioè se veramente le banche non riprendono ad erogare il credito, e purtroppo non dipende solo dalla loro volontà ma da tutta una serie di circostanze, è ovvio che l'economia stenta a riprendersi. Quindi ci sono adesso, ci saranno tutte le condizioni perché l'Italia possa fare meglio. Se questo succederà significa che le aziende torneranno a fare profitti e quindi le prospettive per il mercato azionario italiano soprattutto dovrebbe essere ancora positive. È ovvio, è il miglior mercato azionario europeo dall'inizio dell'anno, ma perché era il peggiore nei mesi precedenti, esatto, ma ancora delle valutazioni a sconto rispetto agli altri listini europei, quindi se abbiamo la pazienza di aspettare una, diciamo, fisiologica fase di consolidamento, poi il mercato ha tutte le condizioni per poter ripartire. C'è una bella riflessione di un ascoltatore tra gli sms, Nicoletta, se vuoi darmi una mano a dare il nostro, è sempre il nostro innamorato Marco, il fante di picche, che però lui, dice giusto, lui avrebbe preferito la borsa al collasso e l'economia reale al top, ma ci scrive: questo è solo un gioco per pochi. Me lo spiega? Diciamo che teoricamente dovrebbe accompagnarsi un'economia al top e una borsa che va di pari passo. Qua invece abbiamo una situazione che va su, come dire, binari diversi. Allora, capisco che da un punto di vista di persone appunto che vivono l'economia reale e non diciamo i mercati finanziari, è difficile comprendere come mai il mercato azionario sia così positivo quando invece l'economia reale ancora non dà segnali di ripresa. Ma questo è dovuto al fatto che i mercati finanziari scontano, come noi diciamo in gergo, il futuro, cioè in pratica prezzano oggi quello che probabilmente accadrà tra un anno, e questo è vero sia per i mercati azionari che per i mercati obbligazionari, ed è per questo che è così difficile investire, perché bisogna immaginare come sarà il futuro e dargli un prezzo oggi. Quindi non si vive nel qui e ora. Assolutamente no. Bisogna vivere nell'oltre. Questo è difficile. Chi fa il mio mestiere guarda semplicemente, diciamo, vive guardando al futuro. Dovete sempre fare un po', come dire, coloro che fanno delle previsioni attraverso una sfera di cristallo, però utilizzando magari dei modelli anche matematici un po' più concreti. Non è proprio, non è proprio così. Diciamo astrologica. Infatti. E allora 800 24 00 24, ricordate ancora che avete un numero verde a disposizione per le vostre domande. Se volete un po' capire quali sono gli scenari possibili sui mercati finanziari, questa mattina ne parleremo con Manuela D'Onofrio. E corrando, corrando di notte da solo. Allora, le borse vanno di corsa, vanno con il turbo, però Deborah, anche la ricerca va di corsa, almeno non proprio di corsa, diciamo che ha un passo sostenuto, e a farle ingranare la marcia negli ultimi tempi è la ricerca, che si può sostenere correndo. Sembra un po' un gioco di parole, ma è quanto propone Race for the Cure, la celebre corsa e passeggiata di solidarietà di 5 km organizzata dalla Susan Komen Italia per fare causa, per sostenere come ogni anno la lotta ai tumori del seno, promuovere la salute delle donne, che si rivolge proprio in questo fine settimana a Roma. C'è ancora tempo per iscriversi, potete farlo andando sul sito, ma in linea con noi abbiamo una grande sostenitrice che ci racconterà tutto, e abbiamo il piacere di avere in linea Rosanna Banfi. Ciao Rosanna. Buongiorno a tutte e due. Grazie. Allora, care amiche. Rosanna, questo ci fa piacere. Grazie. Noi insieme a te oggi vogliamo rivolgerci alle nostre ascoltatrici per dire: ragazze, facciamo correre la ricerca correndo. Assolutamente sì. Venite a Roma, chi non può venire a Roma magari si iscrive e fa una minima donazione di 13 euro, ma cercate tutte donne di partecipare a questo evento, perché questo è il 15° anno, oltretutto facciamo un compleanno molto importante, 15 anni sono tanti, e nel frattempo si è sostenuto, si è aiutato migliaia e migliaia di donne. Questa corsa, questa giornata, anzi tre giorni, perché sono tre giorni di salute e benessere che si svolgono a Roma, fra sport, incontri con medici, screening gratuiti, ce n'è per tutti i gusti, veramente al Circo Massimo, poi in una location speciale, veramente, che abbiamo la fortuna di avere solo a Roma. È al massimo proprio, al top, sì, il top di gamma, come dice Deborah. Nel centro storico di Roma, insomma, è una meraviglia. E serve questa giornata soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione. Questa è quello che vogliamo dire in direi assoluto. Rosanna, prevenzione e diagnosi precoce, che vanno a braccetto, vero? Perché salva la vita. E poi esprimere la solidarietà alle donne in rosa, le donne come me che hanno avuto questa esperienza e che in questo momento, cioè durante la resa, si mettono in risalto, no? Con la maglietta rosa, si fanno notare senza paura e senza vergogna, tutte insieme si danno forza. E credetemi, è veramente una giornata che dà una forza incredibile a chi è malato. Perciò, se non altro, soltanto per dare un segno di solidarietà, vi invito tutti quanti a venire a Roma questo weekend o a Bari, chi non chi fosse del sud Italia, nel prossimo weekend. O fare Roma e Bari, ecco. Rosanna. Perché si può andare di corsa sia a Roma che Bari, certo. Una non esclude l'altro. Noi magari per solidarietà ci facciamo una corsetta qua attorno, Nicoletta, io e te, e così, come dire, saremo vicine a questa manifestazione. Assolutamente, tra l'altro, Rosanna, e questo lo voglio dire anche alle nostre amiche che ci stanno ascoltando, avere un obiettivo preciso, in questo caso insieme a Rosanna, sostenere la ricerca, è il segreto della longevità. Era forse intuibile, ma ora c'è anche il riscontro della scienza. Pensa che qualche giorno fa uno studio americano ha appunto diffuso i dati, è stato fatto su 7.000 americani e i risultati confermano che essere propositivi, avere delle passioni, a Radio 24 si dice la passione si sente, lottare per qualcosa, fissarsi degli obiettivi, di cui parleremo poi a proposito di obiettivi anche negli investimenti con la dottoressa D'Onofrio, aiuta a vivere meglio. Quindi Rosanna, siamo tutte insieme per sostenere la ricerca correndo. Grazie, vi aspetto il 18 a Roma. Grazie. Perfetto. E noi arriveremo di corsa, uno sport che piace sempre più alle donne, quindi Deborah, noi non corriamo. Io ieri sera sul tapirulan ho dato il mio contributo. Ecco, chiederemo al nostro esperto se il tapirulan vale come una corsa. Ottimo. Oppure se la corsa è anche altro. Quale sarà il nostro esperto? Limiti. Non lo voglio dire. No, sorpresona, a tra poco. Io mi posso Manuela D'Onofrio sorride, questa canzone non l'aveva mai sentita, ma ne abbiamo anche altre. C'è anche Lucio Dalla che si è cimentato con una canzone sul mercato azionario, ma in ogni caso, a proposito di quotazioni in borsa, è un momento molto vivace per Piazza Affari, si stanno quotando tante piccole società, forse anche questo è un buon modo per investire a Piazza Affari, perché ci sono tante eccellenze che magari non si guadagnano la ribalta della cronaca come alle società più grandi, però vale la pena guardare anche, no, alla nostra borsa da questo punto di vista. D'Onofrio. Sì, certamente vale la pena guardare a queste appunto aziende che si quotano, anche se io dico sempre che soprattutto il piccolo investitore deve stare molto attento, perché comunque valutare un'azienda di questo tipo è molto difficile, e quindi tra altre cose si rischia poi di concentrare troppo il proprio, diciamo, investimento in queste piccole aziende, quindi di prendere dei rischi elevati. Quindi il mio suggerimento, in realtà, soprattutto per i piccoli investitori, per chi non ha naturalmente delle competenze specifiche, è quello di ricorrere ai fondi comuni di investimento, che tra l'altro sono, a proposito di top, proprio al top in termini di raccolta. Che cosa sta succedendo in questo mondo del risparmio gestito, dottoressa D'Onofrio? Come mai i risparmiatori stanno tornando in maniera così prepotente, direi, su questo strumento di investimento? Ma io penso che le crisi che abbiamo avuto in questi ultimi 10 anni, e se ci pensate sono state veramente tanti, no? Tante crisi, abbiamo avuto tanti shock finanziari, hanno sicuramente lasciato un segno anche nei piccoli investitori, in coloro che casomai in passato erano abituati al fai da te, a comprare delle obbligazioni che pensavano fossero sicure, invece poi alla fine si sono rivelate molto rischiose. Quindi mi sembra che ci sia maggior consapevolezza sulla necessità di affidarsi a quelli che, a me non piace chiamare gli esperti, ma comunque a chi fa questo mestiere. Professionisti del settore, esatto. Certo, più o meno bravi come in tutti i campi naturalmente, certamente. Però comunque è forse meglio affidarsi a chi ne sa un po' più di noi. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. A proposito di Piazza Affari, è un momento molto vivace per la borsa italiana, perché anche grandi investitori internazionali stanno tornando a puntare sulle società del nostro paese, nella fattispecie soprattutto le banche. C'è questo grande investitore americano BlackRock che sta conquistando grandi partecipazioni nei maggiori player appunto bancari. Secondo lei che segnale è questo? Allora, è un segnale sicuramente di fiducia non solo nel nostro paese ma anche nel futuro dell'euro. Il merito soprattutto soprattutto di questa situazione di positività nei confronti dell'Italia per adesso è dovuto prevalentemente alla Banca Centrale Europea e al famoso discorso che il presidente Draghi fece nel luglio del 2012 quando disse farò tutto quello che serve per salvare l'euro. Quindi l'Italia è tornata ad essere un paese investibile soprattutto per i grandi fondi americani e l'altro grande segnale di fiducia che noi abbiamo dato agli investitori stranieri è stata la volontà del paese di intraprendere il percorso delle riforme. Riforme che ovviamente sono pesanti da un punto di vista sociale, ma sono l'unico mezzo per tornare naturalmente a crescere. Allora, stiamo intanto osservando le domande degli ascoltatori. Fra questi c'è chi ci chiede, le devo fare, come dire, un po' assumere una posizione scomoda, nel senso che sarà un po' in conflitto di interessi, perché c'è chi ci chiede qualche previsione sull'andamento del settore bancario italiano. Adesso, a parte Unicredit, comunque, che ha presentato i conti due giorni fa e sono andati decisamente bene, c'è stata una grandissima pulizia di bilanci in Unicredit, come in tutte, certo, le altre banche italiane in quest'ultimo anno, perché devono presentarsi all'appuntamento con l'Europa con i conti assolutamente a posto e quindi capitalizzazioni molto importanti, ma tutto questo anche alla vigilia dell'Unione Bancaria Europea, che prospettive hanno le banche del nostro paese? Allora, il futuro delle nostre banche è legato al futuro del paese. Il settore bancario è di tutti i settori, diciamo, industriali quello che in assoluto segue di più l'andamento di un'economia reale. La interrompo solamente perché ho bruciato la domanda di Franco da Milano, che è collegato telefonicamente con noi, per cui poverino, lo facciamo intervenire. Capita, Franco. Capita anche questo. Buongiorno. Franco, buongiorno. Eccoci qua. Allora, la formuli meglio di me la domanda, Franco. No, io volevo soltanto appunto avere una previsione di dell'andamento in borsa per i titoli bancari. Mm-hmm. Se la poteva essere conveniente o meno acquistare in questo momento. Mm-hmm. Per quale motivo si dovrebbe puntare sulle banche italiane dal punto di vista azionario, dottoressa D'Onofrio? Allora, le banche italiane, appunto, come prima dicevi, hanno subito delle perdite enormi, soprattutto sul portafoglio crediti in questi anni. Quindi hanno fatto pulizia e adesso sono pronte di nuovo a ripartire. Che cosa significa per una banca ripartire? Significa cominciare a erogare credito. E quindi se il paese effettivamente tornerà a crescere, questo significa che le banche torneranno a fare utili, anche perché non avranno più tutto il peso degli accantonamenti che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Quindi il futuro delle banche italiane è legato alla ripresa dell'industria italiana, dell'economia italiana. Siccome noi siamo positivi su questa ripresa, siamo ovviamente anche positivi sulle banche italiane, soprattutto quelle che hanno fatto maggiore pulizia nei propri bilanci. Ora, è ovvio, per rispondere alla domanda di Franco, dell'ascoltatore, nel brevissimo periodo ci potrebbe essere una presa di profitto, perché le banche sono andate molto bene, sì, ma io approfitterei di questa presa di profitto, cioè di eventuali cali, proprio per riprendere a comprare le banche italiane. Ci sono molti aumenti di capitale in vista. Secondo lei in quali casi vale la pena considerare di aderire a queste operazioni? Ma allora, ovviamente non posso fare nomi, certo, però le grandi banche oramai sono a posto da un punto di vista di patrimonializzazione, non hanno quindi bisogno di fare nuovi aumenti di capitale. Noi pensiamo che le grandi banche italiane verranno fuori molto bene da questo stress test che verrà condotto nei prossimi mesi e quindi appunto difficile fare aderire perché non ci saranno aumenti di capitale sulle banche che noi riteniamo meglio posizionate. Certo, bisogna vedere quanto ogni piccola azionista deve spendere, esatto, quanta quota ha già investita e quindi questo è insomma l'aspetto più importante. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande. Andiamo rapidamente alle obbligazioni. Una settimana di aste per il tesoro italiano. I rendimenti spuntati sul mercato sono stati contrastanti. Per qualche scadenza abbiamo avuto appunto un aumento di rendimenti, ma era anche fisiologico aspettarsi appunto una ripresa in questo senso. Le casse dello Stato stanno meglio di qualche tempo fa, dottoressa D'Onofrio, questo parametro. Allora, diciamo questo, più che dire che le casse dello Stato stanno meglio, direi che proprio grazie a questa riconquista, diciamo, di fiducia, il Tesoro italiano riesce a finanziarsi ad un costo più basso, sia in termini assoluti che in termini relativi rispetto al costo della Germania. Quindi le prospettive per il futuro sono, secondo noi, che con questa azione della BCE i rendimenti rimarranno molto bassi e c'è anzi la possibilità che questo famoso spread di cui sentiamo ormai parlare da non so 4-5 certo, anni, esatto, si possa restringere ulteriormente. Non dimentichiamo che la banca centrale, Banca d'Italia aveva previsto in una condizione di normalità che lo spread tornasse ad un punto percentuale, però non è detto che si ritorni ad un punto percentuale con il BTP che va al 2%, cioè, certo, potrebbe esserci in realtà un Bund che da qui ai prossimi due anni potrebbe tornare non so a due punti, esatto, percentuali, e quindi in termini assoluti. Perché quello che dobbiamo ricordare è che quando lo spread o si amplia o si restringe non è sempre responsabilità del titolo italiano a dargli movimento, ma anche appunto il, come dire, il benchmark con cui si l'investitore confronta il titolo non di Stato compra tedesco. Lo spread, compra il BTP, titolo di Stato, compra il rendimento del titolo di Stato. Ieri siamo arrivati al di sotto del 2,9% per quello che riguarda il titolo a scadenza decennale. Allora, non so che ore siano, Nicoletta. Che cosa... E ora, secondo me, di andare. Eccolo là, infatti. Eccolo. Ne abbiamo parlato per tutta la mattina, adesso facciamo lo stop picking, come si dice in gergo finanziario, guardiamo proprio cosa succede in questo istante. Cuore e denari. Andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Andavo a 100 all'ora per cantare la serenata. E anche le borse hanno ingranato il turbo, come ci sta spiegando Deborah, e stanno andando a 100 all'ora. Corrono, corrono, ne stiamo parlando anche con la nostra ospite Emanuela D'Onofrio, direttore investimenti Unicredit. E anche dal punto di vista della salute parleremo di corsa, perché l'abbiamo ripetuto più volte, è un ottimo investimento. È un investimento per la salute fisica e anche quella psichica, è veramente un farmaco straordinario, ma il problema è questo, perché la corsa continui ad essere un investimento, come si dice, dottoressa D'Onofrio, che rende bene, deve essere fatta con attenzione, certo, con intelligenza. E quindi noi oggi vogliamo cercare di capire se se il modo in cui corriamo è corretto, ma anche se quanto corriamo ci fa bene, perché noi da quanto, come un investimento, noi capiamo se rende, perché poi andremo a vedere i rendimenti, se ci tornano indietro dei soldini, per capire se un'attività sportiva ci rende, quella che va bene per il nostro fisico, si devono manifestare dei cambiamenti a livello fisico o psicologico. Se questo avviene, ok, siamo sulla strada buona e continuiamo a andare di corsa. Ma noi di questo parleremo insieme, lo diciamo adesso, al dottor Respizzi. Lo sai che è uno dei nostri preferiti, senza far torto a nessuno, però il dottor Respizzi è il dottor Respizzi. È il dottor Respizzi che piace anche a Deborah, e quindi è un'ulteriore garanzia della sua chiarezza e della sua professionalità. 800 24 00 24, non andate di corsa, perché ne parleremo solo dopo le 11:45, un pezzettino di trasmissione in chiusura. E intanto sono arrivati i nostri ascoltatori appunto con le loro domande, ma nel frattempo dottoressa D'Onofrio, Emanuela D'Onofrio, direttore investimenti del gruppo Unicredit, c'è un ascoltatore che ci scrive: io ho comprato BTP con lo spread a 570 punti. Certo che ad aver avuto un po' di pelo sullo stomaco in quel momento, altro che se si facevano degli affari, però io invece sono contenta che molti non l'abbiano fatto, perché è stato uno scenario molto complesso quello di quel famoso autunno. Andiamo a Rosanna da Modena all'800 24 00 24. Rosanna, buongiorno. Due Rosanne stamattina, prima abbiamo avuto Rosanna Banfi, quindi il nome che va alla grande oggi a Cuore Denari. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo sapere soltanto fare una piccola domanda: visto che le azioni bancarie sono andate così bene, perché non vengono pagati i dividendi agli azionisti? Rosanna, allora, intanto è stato un po' un atto di responsabilità negli ultimi anni non distribuire i dividendi, la remunerazione agli azionisti, perché ci sarebbe mancato anche quello. Secondo lei adesso avremo uno scenario diverso in prospettiva, dottoressa D'Onofrio? Ritorneranno un po' a premiare gli azionisti, le banche? Ma io penso che questa situazione è veramente destinata a migliorare, e soprattutto se c'è un segnale di inversione sul fronte dei crediti deteriorati, cioè che le banche cominciano a vedere appunto che possono ridurre gli accantonamenti perché la situazione sta migliorando, certamente c'è tutta l'intenzione di cominciare a premiare anche gli azionisti. Ma per rispondere prima appunto alla domanda, è vero, i titoli bancari sono saliti molto, soprattutto in questi ultimi mesi, ma se si guarda la chiusura dei bilanci del 2013 sono stati bilanci fortemente negativi, quindi non si può pagare un dividendo se i conti vengono chiusi in rosso. E quindi insomma aspettiamo ancora un po' quantomeno per vedere questo premio. Volevi leggere qualcosa? No, volevo salutare e chiamare Francesco da Roma, se sei d'accordo. Altro che dici? Altro che. Andiamo Francesco, da Roma. Buongiorno. Andiamo da Francesco a Roma. Anche perché ci ha mandato una sfilza di messaggi il nostro fante di picche. Sì, esatto. Allora andiamo a Francesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Eccoci a lei. Dunque, io volevo intervenire sul discorso che le banche non sono molto trasparenti, soprattutto quando si parla di fondi di investimento. Cioè, è difficile che uno vada a uno sportello del borsino della banca e l'impiegato ti proponga qualcosa di diverso, che c'è, che esiste, come per esempio, gli ETF. Certo. Allora, gli ETF praticamente, che ormai ce ne stanno a migliaia su tutti i settori, su tutti gli indici, eccetera, replicano mondo. Tutto, è vero, sì. Ecco, allora, questi ETF praticamente c'è una, si paga una commissione che è circa un terzo di quelle che normalmente fanno i fondi di investimento. Certo. Non si capisce però perché allora uno, un investitore, dovrebbe investire in un fondo di investimento quando ha la portata questi strumenti, che tra l'altro il risparmio a l'ira di Dio sulle commissioni. Poi non poteva essere più chiaro, Francesco, guarda. No, e poi se si può anche, si può vendere online direttamente, esatto, con un banking, uno se lo vedi, segue. Però Francesco, certo, però perché ecco, nome li hai suggeriti questi ETF? Secondo me Gianni Lupotto te li ha suggeriti ma non te li ricordi. Sì, ce li ho. Mi sa di sì, perché noi andiamo a vederlo, lo poi raccontiamo alla dottoressa D'Onofri. Abbiamo fatto il portafoglio di Nicoletta virtuale all'inizio dell'anno, li abbiamo così virtualmente assegnato 10.000 euro e un consulente indipendente li sta gestendo e ha anche fatto un po' di compravendita di BTP Italia, di tante cose. Secondo me qualche ETF te l'ha messo, adesso devo andare a riguardarlo. Vedi, questa è un'indicazione, se noi ci affidiamo a qualcuno bisogna poi controllarlo. Ecco tipicamente altro, certo. Vedi, non mai delegare troppo. No, certo, d'altronde sono i nostri soldi. Ci vuole comunque una delega condivisa, no? Sì. Quindi è come quando si va dal medico, poi ogni tanto bisogna andarsi a fare vedere e capire se la terapia che il medico ti ha dato sta funzionando. Ti piace no, la similitudine? Sì, la condividi? Sì, mi piace molto, ma mi piace molto la dottoressa D'Onofrio. E poi ecco, io dico sempre, quando vai dal medico vuoi anche capire, no? Perché ti sta dicendo che devi avere una certa alimentazione, il perché devi dormire 8 ore, il perché devi, certo, prendere delle medicine. E quindi io mi chiedo sempre, ma perché quando si va dal consulente non si fanno le stesse domande, no? È la stessa perché cosa. Perché sai che cosa? Che si chiude un po' la testa. Sui nel soldi senso, non si parla volentieri. Ecco, ne parlavamo quando con Deborah facciamo le riunioni redazionali. La salute è più facile, ciascuno di noi fa sempre un secondo lavoro oltre il proprio, che generalmente è il medico, no? Per cui è più facile approcciare i temi di salute, andare a leggere anche su internet, scegliere anche dei siti che danno delle informazioni, ascoltare delle trasmissioni che parlano anche di salute, per dire, casuali. Ecco, sul discorso investimenti, soldi, eccetera, o c'è chi è proprio appassionato e ci capisce, come si dice, oppure abbiamo un pochino di difficoltà. Però bisogna pensare che come la salute può darci dei dispiaceri se non ce ne occupiamo, anche i soldi se non ce ne occupiamo possono darci dei dispiaceri. Il nostro ascoltatore Romano se ne occupa, diciamo, in maniera molto attenta, e lui contesta il fatto che lo sportello bancario generalmente è chiaro che il consulente non ti offre il fondo di investimento della casa, non certo l'ETF, che costa di meno, e però l'ETF replica titoli, mercati, panieri, e quindi non ha un gestore professionale che appunto movimenta che movimenta tipicamente il fondo, no? Quindi intanto quello sicuramente è una parte della commissione che va tenuta in considerazione. Che ne pensa dell'universo mondo ETF, dottoressa D'Onofrio? Allora, innanzitutto un chiarimento: l'ETF replica esattamente l'andamento di un indice, quindi se l'indice perde il 40% ci si porta a casa il 40% di perdita. Che cosa ci si aspetta da un gestore attivo, cioè da un gestore che pur investendo in un certo listino però ha la possibilità di decidere che un titolo gli dà un peso che è il doppio rispetto al peso dell'indice e un altro casomai non lo mette per nulla, che soprattutto nelle fasi di mercato negativo, cioè quando ci sono dei crolli di borsa, un bravo gestore può limitare le perdite. Certo. Poi è ovvio che se invece di un meno 40 faccio un meno 20 non è che naturalmente posso brindare, però fa la differenza, soprattutto se l'orizzonte temporale è lungo. Vi faccio un esempio: mercato azionario italiano. Il mercato, il listino italiano ha sofferto moltissimo dopo il fallimento di Lehman Brothers e anche nel periodo poi della crisi dell'Eurozona. Perché? Perché è un listino molto esposto ai bancari. Quindi un gestore attivo che avesse in qualche modo pensato a quello che potrebbe essere stato il peso sul settore bancario di una recessione di questo genere avrebbe sostanzialmente tolto le banche ed avrebbe avuto delle perdite molto fondo, molto investimento azionario italiano non tanto sbilanciato nel settore bancario. Esatto. Detto questo, poi se uno vuole nel suo portafoglio mettere un ETF è totalmente, ecco appunto come giustamente lui diceva, informarsi, è informato del fatto che questi strumenti di investimento esistono e quindi bilanciare bene siti specializzati, cioè assolutamente su internet, dove esatto, può avere tutte certo, le informazioni che vuole, quindi andare in banca e dare l'ordine. Allora, mi leggo il certo, messaggio di un ascoltatore che sembra Razzi fatto da Crozza quando si incontrano, no? Crozza con l'intervista, cioè l'intervistatore Razzi. Ascoltate me, non date soldi alle banche, metteteli nel materasso, fatevi un bello articello e passate al baratto, ci guadagnano corpo, mente e società ma civile. Ma sicuramente avremo molte meno preoccupazioni, molto meno bisogno di cuore e denari. Nicoletta, già ci mandano via. Quindi ci mandano anche no, a adesso, casa. Esatto, dai, speriamo di no. Mi pareva ci fosse un ascoltatore pronto ad intervenire, Marco da Milano, grazie, buongiorno. Sì, salve. Eccoci. Salve. Ci dica. Dunque, io volevo chiedere due cose. Vada. Allora, io sono posizionato sul mercato obbligazionario. Sì. Titoli bei in valuta in lira turca. Sì. Mercato obbligazionario. Volevo sapere che cosa ne pensa la dottoressa D'Onofrio, poi? Sì. Poi la seconda domanda è: il paese più indebitato al mondo, che è il Giappone, paga i soldi meno di tutti nel mondo. Che cosa vuol dire perché questo? Paga i tassi swap meno della Germania e meno degli Stati Uniti. Adesso dobbiamo tradurre la sua domanda a beneficio di tutti gli ascoltatori, Marco, sì, lo faremo con calma. Allora, guarda che anche io sul Giappone non è che sia molto. Allora, forse posso riassumere? Dai, allora, brava. Sì, allora, brava. Partiamo dal Giappone. La prendiamo per cuore denari anche lei, guarda, mi sembra che come conduttrice. Allora, Giappone 240% rapporto debito pubblico prodotto interno lordo, quindi in assoluto giustamente come diceva il nostro esatto, appunto il paese in assoluto più indebitato del mondo paga dei tassi bassissimi per un semplice motivo, che il 98% di questo debito è nelle mani dei giapponesi. Esatto. Soprattutto il grosso è nelle mani delle banche, dei fondi pensione, delle compagnie di assicurazione, che non guardano al rendimento assoluto ma al differenziale, cioè loro si finanziano a zero e investono a 0.5, certo, quindi comunque è un guadagno. È come dire appunto che i tassi chiaramente in Italia, se fossero molto bassi, è proprio per incentivare certo, l'italiano a comprare titoli di Stato, certo, cosa poi che peraltro si è non anche dimentichiamo che in il Giappone è stato per quasi 20 anni in deflazione. Che cosa significa deflazione? Significa che i prezzi scendono, quindi significa che e anche se tu hai l'aspettativa è di ulteriore discesa, un anche se tu hai un rendimento a zero, siccome tra 6 mesi i prezzi scenderanno, tu in termini reali ci stai comunque guadagnando. Certo. Obbligazioni bei, enti sovranazionali in valuta, una nicchia molto specifica, ha raccontato l'ascoltatore. Allora, lira turca, in assoluto una delle valute che è stata maggiormente penalizzata da quando è cominciato questo scossone sui paesi emergenti, è un paese fragile, fragile non solo politicamente ma anche da un punto di vista di debito nei confronti dell'estero, quindi ha bisogno di capitali per finanziare questo debito e quindi da qui la debolezza della valuta. È scesa molto, quindi per carità potrebbe riprendersi, ma di tutte le valute dei paesi emergenti forse è quella più vulnerabile ancora. Allora, per fare un giro nel mondo la richiameremo in un'altra circostanza, dottoressa D'Onofrio. Intanto grazie molte per essere stata con noi. Vi ringrazio e buona giornata e soprattutto a tutti. Complimenti per la grande chiarezza. Grazie. Tutti attenti al traffico. Andiamo al traffico o vogliamo salutare il nostro uomo di oggi? Salutiamolo, dai che ci tieni. Benissimo. Salutalo tu. Dottore Spizzi, buongiorno. Buongiorno. E grazie di essere. Ho creato delle grandi aspettative sul nostro uomo di stamattina, per cui non ce le mandi deluse naturalmente. No, per carità, farò del mio meglio. Dottore Spizzi, ci stanno già mandando messaggi e stanno già chiamando al nostro numero verde i nostri ascoltatori interessati al tema corsa 800 24 00 24, perché diventi un investimento nel pieno senso del termine, buono per la nostra salute fisica e mentale. Vi aspettiamo subito dopo le informazioni sul traffico. Cuore e denari. Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Il miracolo non è essere giunto al traguardo, ma aver avuto il coraggio di partire. Non è forte colui che non cade mai, ma lo è colui che dopo essere caduto si rialza e ricomincia. Amo correre. È una cosa che puoi fare contando sulle tue sole forze, sui tuoi piedi e sul coraggio dei tuoi polmoni. Jesse Owens. In apertura di trasmissione vi abbiamo invitate a correre per sostenere la ricerca, ma sono tante, numerosi i motivi che spingono una persona ad infilarsi le scarpette ed andare. Ne parliamo oggi insieme al dottor Respizzi. Dottore, sono già arrivate le telefonate al nostro numero verde 800 24 00 24. Prima di dare naturalmente voce ai nostri ascoltatori, dottor Respizzi, cerchiamo di inquadrare un po' il tema per poter dare dei consigli anche alle persone che già hanno fatto questa scelta, perché chissà mai invogliare qualcuno a iniziare a correre. Noi siamo nati per camminare più che per correre, ma alcuni sono fatti per correre più di altri. Ecco, un bisticcio di parole per dire che anche il fisico aiuta. Assolutamente. Intanto buongiorno a tutti. Sicuramente il fisico aiuta, e per la verità la corsa è stato uno strumento fantastico di fuga. E questo per l'uomo primitivo era importantissimo, perché noi abbiamo deciso di stare su due zampe invece che quattro, e tutte le volte che ci siamo trovati in difficoltà con qualche animale pericoloso che ci inseguiva, sì, ce la siamo date a gambe. Scappare. Esatto, bravissima. E questa è una cosa molto importante, perché ha consentito lo sviluppo della nostra specie, che ha immediatamente selezionato nei tempi, nei milioni di anni che sono passati, delle caratteristiche particolari, perché noi siamo non tanto veloci ma molto resistenti, per cui bene o male riusciamo a scappare anche ad animali più veloci di noi ma meno resistenti, per cui alla lunga ce la caviamo, diciamo, ecco. Questo potrebbe essere una cosa carina da fare. Questo mi sembra, no? Un sano ottimismo. Dottor Respizzi, uomini e donne, sempre più donne iniziano a correre, partecipano alle maratone. Abbiamo detto che è un po', cioè, il fisico aiuta. C'è anche una differenza di genere nell'approccio alla corsa. I benefici della corsa si fanno sentire in modo diversi nel fisico maschile e in quello femminile? Assolutamente sì, c'è un vero e proprio boom di attenzione alla pratica delle sport, della corsa, del jogging, ma in particolare per quanto riguarda mezza maratona e anche maratone da parte delle donne. Questo è molto bello, perché è un'attività che si può fare facilmente. Le caratteristiche diverse tra uomo e donna, in questo caso di genere, appunto, sono la conformazione del bacino, che sì, è più larga nella donna. E questo comporta un'inclinazione dei femori con la facilità di avere un ginocchio maggiormente valgo, cioè un po' aperto verso l'esterno, nella donna rispetto all'uomo. Questa è una caratteristica ovviamente fisiologica, legata al fatto che le donne fanno i bambini, sì, e quindi è una caratteristica da tenere presente quando si comincia a fare un'attività di questo tipo il jogging. Quindi questo significa che uomini e donne hanno talloni d'Achille differenti? Assolutamente sì. Vogliamo ricordarli, che così i nostri ascoltatori si sintonizzano e ci dicono se sono d'accordo. Devo dire che, anche se si pensa che la cosa più frequentemente colpita, il distretto più frequentemente colpito sia il piede, per la verità invece è più facile che ci siano problemi al ginocchio quando uno comincia a correre, quando uno corre. Sì, per uomini e per donne, dottor Respizzi. Esatto, nella donna più facilmente nella parte interna del ginocchio, sì, per l'uomo più facilmente nella parte esterna. E questo proprio perché c'è questa conformazione biomeccanica della gamba con questa maggiore inclinazione verso l'esterno del ginocchio nella donna. Anche le ragioni che spingono a correre forse sono diverse tra uomo e donna. Molte donne iniziano a correre ad esempio per dimagrire. In linea con noi abbiamo Denise dalla provincia di Como. Buongiorno Denise, 800 24 00 24. Benvenuta. Corre Denise? Con la domanda delle domande, direi. Denise, buongiorno. Esatto. Sì, buongiorno. Io sono sempre stata un'estimatrice della corsa, che ho praticato in modo abbastanza costante nella mia vita. Io ho 50 anni, ho 4 figli e mi piace correre anche per dei benefici psicofisici, insomma, sì, non solo fisici ma anche psico. Però ultimamente vedo che sto virando più verso la camminata veloce. Questo volevo chiedere al suo esperto per due sensazioni. Uno, per preservare le ginocchia, appunto, magari le giunture. L'altro, domanda delle domande, sì, mi è venuto il dubbio. Perché ride Denise? Perché lo so. Che dopo 50 anni la corsa non sia così benefica nei confronti della cellulite, che qualcuno mi ha detto è meglio la camminata piuttosto che la corsa, che è leggermente percussiva. Allora, Denise fa una domanda, vero, che piace a tutte noi donne. Dottor Respizzi, mi raccomando, che sia precisissimo, ecco, esatto. Siamo al millimetro, al millimetro. Pendiamo dalle sue labbra. La nostra cellulite pende dalle sue labbra. Dunque, per quanto riguarda rapporto età-corsa e soprattutto, come diceva l'ascoltatrice, risparmio delle articolazioni, è sicuramente molto ragionevole questa riflessione, nel senso che oltre i 50 anni, mediamente, come sempre, è più facile che la ginocchio in particolare abbia, e l'anca, abbiano delle iniziali note di artrosi. Quindi se io continuo a correrci su, sono continui balzi sostanzialmente, sì, prolungati, ripetuti per migliaia e migliaia di volte, è più facile che possa scatenare una sollecitazione, un'irritazione delle cartilagini e quindi alla lunga avere dei problemi maggiori. Quindi mi sembra molto ragionevole quanto detto dalla nostra ascoltatrice. Quindi passare dalla corsa alla passeggiata veloce. La passeggiata veloce non prevede dei salti, dei balzi praticamente, quindi è molto meno impattante, come si dice, sulle cartilagini del ginocchio, della caviglia e dell'anca. Per quanto riguarda l'azione sulla cellulite, è un po' più complessa. Diciamo che magari fosse così facile, cammini invece che correre, la cellulite va via. La cellulite è una vera e propria patologia, ne avete parlato molte volte, ed è una... Vedi che ci sente il dottor Respizzi, zitto zitto, lui c'ha l'orecchietto che sente. Ascolta la cellulite. Bravo. E quindi è una patologia vera e propria con un deposito di materiale sostanzialmente, in questo caso adiposo, che è molto difficile rimuovere. Tutte le attività aerobiche agiscono sul grasso, ma sulla cellulite, che è qualcosa di più sostanzioso e più stabile sostanzialmente, è molto più difficile agire. In quel caso le azioni dirette, locali, sui punti della cellulite, con i massaggi, con queste tecniche qui, sono forse più efficaci. Ad esempio adesso si usano molto le onde d'urto, in questo caso sono molto più efficaci nel risolvere la problematica o comunque attenuarla. Invece il consumo con le attività aerobiche, corsa, camminata veloce, bicicletta, è sui grassi generali del corpo, tutto ciò che c'è in giro nel corpo, non così distrettuale a livello della natica o delle cosce. Mi spiace deludervi, ma... No, insomma, bisogna darci da fare. Esatto. Bisogna darci da fare, dottor Respizzi, sì, ma non neanche troppo da fare. Noi tendiamo a sottolineare i vantaggi, gli aspetti positivi dell'attività sportiva, ma sappiamo anche che troppo sport fa male. E su internet gira una formula molto semplice che permette ai runner, quelli che dalla corsa rimangono stregati e non vedono l'ora di uscire, di mettere le scarpette per andare, quindi rischiano di esagerare, questa formula permetterebbe, metto il condizionale, ai runner di calcolare il massimo chilometraggio settimanale. La formula dovrebbe essere 150 meno l'età del runner. Quindi iniziate a calcolare la vostra, se siete runner fate la vostra formulina e insieme al dottor Respizzi ne parleremo naturalmente subito dopo il GR, che vi invitiamo ad ascoltare con noi. Intanto, dottor Respizzi, non parleremo solamente di runner entusiasti, amatoriali, insomma quelli incalliti, ma parleremo anche dei problemi che possono insorgere in chi inizia a correre, e questa è la bella stagione. Invoglia molti a uscire nei parchi a correre, restate quindi con noi. Cuore e denari. Mi chiamo Ruben Nosave, io sono un professore argentino, io vengo da Buenos Aires, io insegno in università in Buenos Aires, a una cattedra di sport, e io va dicendo da molto tempo nel mio paese di quello che io penso una missione che si deve avere il coraggio di dire. Una voce forte e chiara, scientifica, che si alza e dice: il sport fa male. Tutti vuole stare in forma, andare in palestra, se deve avere il coraggio di dire: il sport fa malissimo. Il sport fa male fisicamente, il sport fa male alla gamba, fa male alla schiena, fa male al cuore, fa male al polmone. Non c'è una parte del corpo che sport non ti fa male. Ed eccoci qua, dottor Respizzi, siamo ancora in linea con lei, parliamo di corsa. che fa bene, ma diciamo la verità, è uno sport abbastanza traumatico. Pensate che un mega studio dell'Università della Carolina, io non vogliamo essere dei gufi, però ve lo dico. No, io già ce l'hanno detto per la borsa, quindi ecco, evitiamo per la corsa. Vedi che assonanza? Ve lo dico solo per dovere di cronaca. Allora, questo studio ha stabilito che per ogni 1000 ore di corsa ci sono dai 2,5 ai 21 infortuni. Quindi, sempre secondo i calcoli che hanno fatto loro e noi li abbiamo presi per buoni, un runner che corre 3 ore la settimana, il carico di lavoro abituale del principiante, avrà, se va bene, un infortunio ogni 3 anni, se va male 3 infortuni all'anno. Allora, dottor Respizzi, gli infortuni sono dovuti a diversi fattori e non è semplice trovare subito la soluzione, individuarle, però possono capitare sia al neofita che allo sportivo amatoriale, e di questo vogliamo parlare oggi. Quindi, se avete iniziato a correre da poco, se lo fate da tanto, noi oggi vogliamo cercare di aiutarvi a leggere un po', a interpretare i segnali che il corpo vi manda e che spesso, o perché volete siete appassionati o perché vi dite vabbè devo resistere, tendete a trascurare. 800 24 00 24, dottor Respizzi, a ciascuno il suo infortunio, diciamo così? Comunque c'è da precisare una cosa: questo studio molto interessante americano dimostra che il runner è una persona che rischia poco, cioè questa percentuale di infortuni, questa frequenza di infortuni è abbastanza bassa rispetto agli sport abituali. Il calcio è molto molto più impattante, il volley, il basket, cioè è uno sport che ha le sue problematiche, ma non è uno sport pericoloso, proprio dal punto di vista numerico. Sì. E soprattutto provoca delle patologie di tipo cosiddette da sovraccarico, cioè da ripetizione del gesto per appunto migliaia di volte. Questa cosa è molto diversa dall'infortunio classico. L'infortunio, uno si immagina una distorsione della caviglia, si fa male a un ginocchio perché cadi, picchi un colpo, cose del genere, no? Nel runner, a meno che uno non cada evidentemente, ma quello capita a tutti, in qualunque attività, ha invece delle patologie proprio da sovraccarico. Come dicevo prima, ad esempio a livello del ginocchio, può avere quella che si chiama la cosiddetta sindrome della bendeletta iliotibiale, che detta così è tremenda, ma la bendeletta iliotibiale è una parte, è un tendine che passa in fianco al ginocchio dalla parte laterale e che invece non si irrita, si infiamma se io faccio tantissime volte questo gesto. Perché sono dei microtraumatismi? Microtraumatismi ripetuti. Voilà, abbiamo capito. E dai, è la goccia che scava la roccia. Eh sì, esatto. Mi piace? Questo capita molto più frequentemente nei maschi, la bendeletta. Sì. Dall'altra parte, dalla parte mediale del ginocchio, cioè la parte interna del ginocchio, invece c'è un'altra parte, un altro tendine, che si chiama zampa d'oca, che è detto così un po' bruttino. No, mi piace di più rispetto all'altra. Ecco, vabbè, sono le zampe di gallina, ci sono anche le zampe d'oca, diciamo così, che è più tipico invece nella ragazza, perché in quel caso questi tendini che sono nella parte interna del ginocchio si possono infiammare proprio per quella caratteristica che dicevamo prima, come conformazione di genere nella donna. Quindi quando noi troviamo un runner che si infortuna, di solito si ferma perché ha qualcosa del genere. Un'altra cosa che può succedere è la fascite plantare, cioè un'infiammazione sotto la pianta del piede, da ancora una volta ripetizione del gesto per tantissime volte. Ma, e qui c'è un tema molto importante, magari un'errata scelta dello strumento, cioè la scarpa. E il jogging è una pratica molto semplice, molto economica, nel senso che basta avere un paio di scarpe, non serve nient'altro. Ma la scarpa va scelta molto bene. Se vuole poi approfondiamo anche questo tema qua. Naturalmente, intanto continuate a chiamarci 800 24 00 24 prima di dare la parola a Valeria che ci chiama da Bari, a Massimo della provincia di Monza, Brianza. Dottor Respizzi, tutti quando si fa sport, e non solamente quando si corre, veniamo un po', ci misuriamo con dei dolorini, sono i dolori che ci dicono, ci segnalano che i nostri muscoli si sono dati da fare e che quindi ci dicono guarda che ho lavorato, e quindi si lamentano un po'. Ecco, ma quando, che cosa mi dice il dolore? Perché io, se riesco ad analizzarlo bene, non dico che faccio diagnosi, ma inizio a capire se il dolore è dovuto da un sovraccarico, se mi sono infortunato, se sono dolori assolutamente fisiologici. Serve quindi prestare attenzione al tipo di dolore, a quando si manifesta, quanto dura, se durante il movimento, invece quando ci fermiamo, se dura lungo o se si smaltisce in poche ore dopo la cessazione dell'attività sportiva? Assolutamente, il dolore va visto come un segnale del nostro organismo di tipo positivo, perché il dolore è come una spia, qualcosa che ci dice: guarda che sta accadendo qualcosa. Se io sono in grado di interpretarlo in maniera corretta, sì, posso frenarmi, ad esempio, evitando quindi di andare incontro a qualcosa di più grave. Ecco, qual è il dolore che ci deve fermare? Ecco, se io ho dolore dopo aver corso, ho dolore ai muscoli, è molto probabile che non sia assolutamente nulla, è semplicemente un affaticamento. La non abitudine alla corsa imballa, come si dice in gergo, i muscoli, e quindi la presenza di acido lattico, che poi man mano viene metabolizzato e viene eliminato all'interno del muscolo, dà quella dolenzia diffusa che, se io mi tocco la coscia piuttosto che il polpaccio, la sento un po' dolente. Sì. Questo di solito non è proprio nulla. Okay. Basta un po' di riposo e basta. Stringete i denti e andate avanti. Esatto, brava. Se invece il dolore è localizzato in quei punti che dicevo prima, sotto la pianta del piede, sulla parte laterale del ginocchio, sulla parte interna del ginocchio, quindi più vicino all'articolazione, più vicino all'osso, in quel caso non devo sottovalutarlo, devo tenerlo presente e devo calcolare, tenere presente che potrebbe essere qualcosa di più importante, cioè un sovraccarico, quindi una tendinite. Allora Tina ci scrive: oltre alle zampe di gallina dobbiamo temere le zampe d'oca? Anche. Ebbene sì. Mentre già degli ascoltatori ci scrivono: vi prego parlate delle scarpe. Ne parleremo subito dopo aver sentito Valeria da Bari, Massimo e anche Mario, perché i nostri ascoltatori sono appassionati di corse e vogliono le sue risposte, dottor Respizzi. Valeria, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Volevo chiedere al dottore se la corsa è conciliabile con una lieve fissurazione del menisco. Corsa e menisco. Io sono sempre maleducatissima, ma devo sapere quanti anni ha. 40 ecco, anni. Perfetto. Dunque, una fissurazione del menisco di solito è segnale di una usura del menisco, quindi qualcosa legato, ahimè, al procedere degli anni. E in effetti, se c'è già questa diagnosi, che immagino che avrà ottenuto tramite una risonanza magnetica o un attacco, diciamo che la corsa non è lo sport ideale, perché si rischia di provocare un'ulteriore usura del menisco. Quindi consiglierei eventualmente di approfondire bene questo tema, ma probabilmente è più opportuno cambiare attività. Ad esempio? Ad esempio la bici. La bici non dà problemi. Il nuoto come certo. Suggerivano dei nostri ascoltatori. In questo caso anche il cammino veloce. E il tapirulan di Debora? Il tapirulan di Debora, se ci corre, corsa uguale. Esattamente. Non è che mi piaccia tanto, ogni tanto però un attimo prima di aspettare il corso mi infilo fuori dalla sala corsi, dalla palestra. Il tapirulan è che è molto elastico, è molto morbido, e quindi è molto difficile che provochi dei sovraccarichi. Mi scaldo con quello prima della lezione vera e propria. Questa mi sembra una buona idea. È perfetta o no questa Debora? Oddio. Molto vicina alla perfezione, se non è proprio perfetta. Se fosse perfetta è noiosa. È vero, infatti lei cerca di avere qualche piccolo difettuccio proprio per non essere grandi, noiosa. Allora andiamo a Massimo dalla provincia di Monza, Brianza. Buongiorno. Buongiorno, innanzitutto grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie per avermi richiamato. Volevo sapere, in parte mi avete già risposto con quest'ultima risposta che ti ha dato l'ascoltatrice prima di me. Io ho avuto un problema al menisco, un paio d'anni adesso che corro anche con mezze maratone, puntavo alla maratona, mi sono dovuto fermare. Ho fatto una risonanza e ho scoperto che non ho più cartilagine a uno dei due ginocchi, il sinistro. Sì. Volevo sapere, ho fatto delle infiltrazioni di acido ialuronico, sto finendo il ciclo con la prossima, che sarà la quarta che faccio. Volevo sapere se poi potrò ancora provare o il dottore pensa che è meglio proprio... Insomma, dopo questa iniezione, oppure deve attaccare le scarpette al chiodo. Esatto. Dottor Respizzi. Le iniezioni descritte dall'ascoltatore sono l'apporto all'interno dell'articolazione di un acido, appunto l'acido ialuronico, che è molto diffuso nell'organismo ed è uno dei componenti della cartilagine. Quindi servono sostanzialmente a lubrificare un po' il ginocchio, fare in modo che ci sia meno attrito dentro nel ginocchio. Ma purtroppo non fanno guarire le lesioni della cartilagine. Ora, da come l'ha descritto l'ascoltatore, non ho più cartilagine, non penso, perché sennò dovrebbe mettere la protesi domani, e quindi avrà una lesione della cartilagine. E questo significa che a seconda della gravità della lesione della cartilagine si va o purtroppo, se è molto grave la lesione, verso una protesi del ginocchio, oppure si può conviverci, ma come dicevamo prima, esattamente per il menisco, le attività di corsa, cioè di continuo rimbalzo, prolungata nel tempo, reiterata nel tempo, non sono sicuramente indicate. Abbiamo detto che essenziale per correre e per evitare di farsi male è la scarpa, che deve essere scelta adeguatamente, ma oltre alla scarpa, di cui parleremo tra poco, anche il modo in cui appoggiamo il piede per terra e anche al dove lo appoggiamo. Certo. Dottor Respizzi, un ascoltatore ci scrive: per non sollecitare le articolazioni corro sulle punte, cioè senza rullata, solleciti i polpacci ma senza problemi, però ha qualche dubbio e ci scrive: va bene Carlo? No, non va bene. No, Carlo mi sa che è rimandato. È fatta con la rullata del piede, non bisogna correre sulle punte perché si sovraccaricano le punte, non ha molto senso. La corsa deve essere con una rullata completa, attacco, pianta, punta e con la spinta, quindi non è una buona idea. Pasquale, a proposito di come e dove mettiamo i piedi, ci scrive che la corsa è dannosa se fatta sull'asfalto e con le scarpe. Beh, a piedi nudi la vedo molto dura. Esatto. Questo ne abbiamo accennato prima. La scelta del terreno su cui correre è decisiva, in particolare per i neofiti, per coloro che riprendono a correre dopo molti anni. Sì. L'asfalto è pericolosissimo perché è la superficie più dura sulla quale io posso correre. Quindi, soprattutto per i neofiti, appunto, e chi tende a riprendere, il consiglio è di andare su terreno morbido. Il terreno morbido è oltre a pirulare in palestra o all'aperto, su prato evidentemente, o su terra. Quindi questa è una prima scelta che può essere molto importante nell'evitare questi sovraccarichi di cui abbiamo parlato durante tutta la puntata. Se non è possibile correre sul prato, sull'erba o sulla terra, perché in città evidentemente può essere difficile, il rischio è più elevato. Si può ridurre questo rischio con una scarpa adeguata. E qua veniamo alla scelta della scarpa. Le scarpe ce ne sono 100.000 modelli, evidentemente, quindi non è vero assolutamente che la scarpa più cara è la migliore. La scarpa corretta è quella che più è confortevole per la persona che la indossa. I piedi ce ne sono altrettanti, 100.000 tipi, quindi bisogna rivolgersi a dei negozi specializzati per scegliere la scarpa più adatta alla nostra forma di piede. C'è chi ha il piede largo, il piede lungo, il piede quadrato, tutte queste caratteristiche. Di cui ci siamo divertiti a parlare, egizio, romano, greco? Ce ne sono, ovviamente ognuno ha il piede fatto alla sua maniera. E poi pensi alla differenza di carico tra una ragazza o un maschio di 90 kg, insomma evidentemente le dimensioni sono anche molto diverse. Un aiuto molto molto importante per la scelta nella scarpa, appunto, quindi è un tecnico capace con l'abbinamento di un podologo che sia in grado di definire se è il caso o no di mettere una soletta dentro nella scarpa. Questo sempre con l'obiettivo di ridurre i sovraccarichi. Abbiamo Stefano che ci chiama da Livorno. Buongiorno Stefano, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il dottore in qualche modo mi ha un pochino bruciato la domanda. Mannaggia mia, ma lei ne faccia un'altra, lo mette in difficoltà, Stefano. Parlando appunto di sistemi di prevenzione degli infortuni, io premetto sono un runner abbastanza esperto. E fra i vari sistemi si parla appunto dell'uso dei plantari, sui quali ci sono varie scuole di pensiero, anche teorie contrastanti. E l'altro sistema, oltre naturalmente a una buona alimentazione e a un buon riposo, dovrebbe essere l'uso, secondo alcuni, in certe fasi della stagione, di un potenziamento muscolare fatto con le macchine in palestra. Volevo capire il dottore che cosa ne pensava. Per quanto riguarda plantari e scuole di pensiero, la mia scuola di pensiero è questa qua. Il plantare è utile se c'è un'alterazione della forma del piede. Quindi è indispensabile, prima di mettere un plantare, fare una valutazione precisa di com'è l'appoggio del piede, vedere se uno c'ha il piede piatto, il piede valgo, sì, il piede, tutte queste caratteristiche che ci sono. Se un piede è normale non ha bisogno di nessun supporto. Io la vedo così, in maniera un po' molto, molto chiaro. Per quanto è riguarda... indispensabile avere una visita medica, certo, per decidere mettere il plantare o no. Per quanto riguarda il lavoro in palestra, è sempre utile in tutte le attività sportive, perché fare running richiede molta forza, proprio perché ogni volta che io faccio il passo di corsa devo ammortizzare con le gambe, se no cado per terra. Quindi assolutamente. Quindi abbinare sempre attività aerobica e anaerobica. Questo è un po' il segreto. Sì. Allora, le domande sono davvero tantissime, torneremo a parlare di corsa e di borsa, naturalmente. Io ringrazio il dottor Stefano Respizzi per essere stato con noi, che ha promosso anche il tapirulan di Deborah e quindi di tutti quelli che come Deborah praticano questo tipo di attività. Noi come sempre vi diamo appuntamento. A domani, buona giornata a tutti. Cuore e denari.